direi che la presenza di lavoratori stranieri nell'agricoltura italiana è un dato ormai strutturale e il loro lavoro e la loro attività contribuisce senza alcun dubbio in maniera determinante ormai nell'economia, agricola del nostro paese. Sentieri. Percorsi tematici per esplorare l'universo multiculturale della Campania. Rilasciare un permesso di soggiorno per ricerca occupazione rinnovabile e convertibile alle condizioni di legge, oppure un permesso di soggiorno per lavoro ai cittadini stranieri che dimostrino la presenza in Italia dal 29 febbraio 2020. È questa la proposta dell'ASGI, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, di cui abbiamo parlato con l'avvocata Amarilda Lici. La proposta dell'ASGI, insieme alle moltissime altre associazioni firmatarie, mira ad una regolarizzazione che non intende assolutamente discriminare in base al settore produttivo, una proposta che è rivolta a tutti i cittadini stranieri, prevedendo il rilascio di un permesso di soggiorno sia in caso di emersione da lavoro irregolare, quindi per chi ha un lavoro, nonché prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per ricerca, occupazione. In entrambi questi casi si tratta di un permesso di soggiorno della durata di un anno, rinnovabile e convertibile. Gli obiettivi che vuole perseguire la proposta sono diversi. In primis, una regolarizzazione aiuterebbe le persone ad uscire dall'illegalità, dalle situazioni di sfruttamento e di emarginazione sociale, restituendogli quindi dignità, quella dignità di cui ogni essere umano ha diritto di godere. E allo stesso tempo la proposta mira a garantire in concreto il diritto alla salute di tutti, sia come individui, ma insomma come bene collettivo, poiché solo se ogni persona ha effettivo accesso alle cure e in generale al sistema sanitario nazionale è tutelata anche la salute collettiva. Per cui direi che i vantaggi indubbiamente sono per tutti, sia cittadini stranieri che non. Direi che la presenza di lavoratori stranieri nell'agricoltura italiana è un dato ormai strutturale e il loro lavoro e la loro attività contribuisce senza alcun dubbio in maniera determinante ormai nell'economia, agricola del nostro paese. Stupisce dunque leggere in questi giorni di proposte di regolarizzazione di cittadini stranieri solo ed esclusivamente per sopperire alla mancanza di manodopera nella filiera agricola. E questo viene fatto come se queste persone fino a ieri non fossero mai esistito o non avessero lavorato nel campo agricolo per garantire a tutti noi i cibi a tavola. Anzi, direi che piuttosto bisogna chiedersi in quale condizione queste persone lavorano e se effettivamente tutti i loro diritti sono garantiti e nel caso, insomma, come poter fare per tutelarli. La nostra proposta ha ricevuto oltre 3.000 adesioni, quindi possiamo dire veramente un numero altissimo e si tratta sia di adesioni individuali che di associazioni, quindi persone appartenenti al mondo della cultura, accademico, giornalisti, giuristi. E insieme alle associazioni del terzo settore, ma anche a tutela proprio dei diritti dei cittadini stranieri, tutto questo diciamo in rappresentanza di una società civile che è unita nel chiedere il riconoscimento della dignità alle centinaia, migliaia di persone straniere che attualmente sono prive di permesso di soggiorno e che quindi chiedono a gran voce la possibilità di essere regolarizzati. Ovviamente questo invito, approfitto, lo estendo insomma a tutti coloro che ci ascoltano, sia di firmare la nostra proposta, ma soprattutto di sostenerla. Grazie. Diversamente da quanto sta emergendo nel dibattito politico attuale, la proposta dell'ASGI considera i diritti di tutte le persone che vivono in Italia, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, così come previsto dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Ed è per questo motivo che come Radio Antenna Migrante ci sentiamo di sottoscrivere e condividere la proposta. Perché può essere un'occasione per una società civile più uguale, evitando che dall'emergenza sanitaria in corso, così astrattamente democratica, possa uscire una società ancora più escludente e divisiva. Nella descrizione del podcast troverete tutti i riferimenti web per approfondire e sottoscrivere la proposta dell'ASGI e intanto un caro saluto da Giulia Scalona e a risentirci alla prossima puntata. Per ascoltare e riascoltare Radio Antenna Migrante vai sul sito www.stranierincampania.it. RAM vive all'interno di Impact FAMI 2014-2020, codice 2451, cofinanziato da Unione Europea, Regione Campania, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno. Grazie e a risentirci alla prossima.